Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti a Mebius, ciao Chiara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Adesso noi cominciamo con i titoli, ma il primo titolo questa settimana è molto serio e importante. Perché qui in radio si stanno facendo parecchi cambiamenti per quanto riguarda gli orari e le trasmissioni, è ancora tutto un po' in corso, però a partire da questa sera una cosa possiamo dirvela è che noi andiamo in onda dalle 21 alle 21.30. Vale a dire andremo in onda soltanto per mezz'ora, anziché l'ora diciamo ordinaria tradizionale. E poi dopo dovrebbero esserci altre cose che al momento non si sanno ancora. Abbiamo in serbo qualche novità, insomma vi sapremo dire quando avremo maggiori dettagli. Intanto cominciamo con le nanotecnologie come argomento che a noi piace sempre molto. Un avvenimento un po' particolare perché c'è un ventennale di scienza dei materiali all'Università Bicocca di Milano e quindi vi parleremo di questo. Le scienze materiali sono quindi le levatrici delle nanotecnologie e di tante altre cose. Poi dopo a SMAU Milano. E poi parliamo di due tecnologie che abbiamo incontrato settimana scorsa in fiera. Sono due tecnologie che servono, diciamo, per gli ambienti di vita, per facilitare la vita di persone che possono avere problemi in ambito appunto sanitario e così via. Riabilitazioni o anche patologie permanenti. Parleremo di un esoscheletro con uno che lo utilizza e poi di realtà virtuale per la riabilitazione. Partiamo. Venerdì prossimo a Milano, all'Università Milano Bicocca, c'è un evento particolare che si terrà nell'auditorium del campus, un evento organizzato dal Dipartimento di Scienze dei Materiali. E qui con noi questa sera c'è Dario Narducci. Buonasera Narducci. Buonasera. Lei è docente e fa parte appunto del Dipartimento di Scienze e Materiali. La singolarità di questo appuntamento è che si festeggiano i 20 anni di scienza dei materiali. Anzi, le chiedo Narducci, questo ventennio, sono passati 20 anni, scienza dei materiali quando iniziava 20 anni fa ce n'erano altre in Italia? Siamo stati in realtà i secondi, siamo stati battuti per un soffio da Torino, eravamo però comunque pionieri di entrambi, sia Torino che noi di Milano Bicocca. Ecco. Che tempi eravamo Milano Statale, perché stiamo parlando di 20 anni fa e non c'era ancora la Milano Vista di Milano Bicocca. Eh già, bisogna ricordare quello. Ecco, io mi ricordo un po' che avevo seguito questa apertura di scienze materiali e allora si faceva molta fatica a far capire alla gente che non era qualcosa che aveva a che fare con architettura, ingegneria, mattoni e cemento. Sì, esatto. E effettivamente l'idea che viene immediatamente in mente, o che veniva in mente, oggi le cose sono grazie a Dio un po' cambiate, è che il materiale fosse uguale al materiale di costruzione. Ovviamente anche quelli sono materiali, ma noi ci occupiamo di altro e ci sono molte altre cose, oltre ai materiali strutturali, come si dicono, di cui ci si può e ci si deve occupare. Allora, il fatto singolare è che c'è questo festeggiamento del ventennale, ci saranno anche presenti in vario modo degli studenti che hanno fatto una carriera in Italia e all'estero, però si parlerà proprio anche di questa scienza dei materiali. E ricordiamo che alle 14.30, per chi volesse seguirlo, anche che non può raggiungere, come dire, fisicamente l'auditorium in Bicocca, la radio ospiterà su www.radio24.it lo streaming dell'evento. Di questo appuntamento, esatto. Ecco, però Narducci, la scienza dei materiali è effettivamente una scienza tremendamente pervasiva, però è levatrice di altre scienze, di altre ragazze come le nanotecnologie, che hanno molta più immagine, no? Ma sotto c'è questa scienza dei materiali che è assolutamente pervasiva e alla quale tra l'altro devono essere attribuiti, come dire, degli scenari, no? Delle potenzialità che interverranno molto in tutto questo mondo, per esempio dell'ICT, dell'elettronica, nel quale si pensa che i problemi siano eminentemente di computer appunto e di chip, e invece la sfida è proprio quella dei materiali. Sempre comunque quella dei materiali, sia che sia il chip, sia che siano altre cose che forse sono meno evidenti ma che sono almeno altrettanto importanti. Beh, ovviamente la scienza dei materiali è ben lieta di essere stata la culla delle nanotecnologie, che sono ovviamente una disciplina ben più trasversale che non soltanto la scienza dei materiali, ma che indubbiamente coinvolgono in maniera molto pesante le conoscenze che noi abbiamo avuto e che abbiamo sviluppato nel campo dei materiali. E in effetti questi 20 anni, per chi vorrà seguire in diretta o di persona addirittura questo evento, mostreranno come 20 anni di scienze dei materiali siano stati 20 anni di trasformazione, di scoperte assolutamente incredibili, uno dei settori sicuramente più vivi delle scienze attualmente. E i materiali in generale sono sicuramente centrali in tantissime tecnologie nelle quali a volte non appaiono. Lei citava prima la ICT, ma certamente ovviamente è banale, i nostri computer funzionano perché ci sono dei chip, ci sono della microelettronica che si basa su materiali sempre più avanzati e che consentono permettono anche per situazioni sempre più spinte. Ci sono dei materiali che ci permettono di fare dei dischi rigidi che hanno dimensioni sempre più piccole e capacità sempre maggiori, e così via. Ma ci sono materiali anche laddove forse si vedono un pochino di meno, e ci saranno materiali in applicazioni che sono in questo momento futuribili o quantomeno appena nate. Una delle quali, per esempio, è questa cosa di cui ogni tanto si sente parlare, dell'Internet of Things. Spieghiamolo brevemente, cosa sia Internet lo sanno tutti naturalmente. L'Internet è una qualcosa che permette alla gente di parlarsi. Non tutti sapranno probabilmente che 2 anni fa il numero di oggetti che parlano fra di loro in Internet ha superato il numero delle persone che parlano fra di loro in Internet. Certo. Le macchine incominciano a dialogare. Le macchine dialogano tantissimo, e di che macchine stiamo parlando? Stiamo parlando anche delle cose che forse uno può immaginarsi, smartphone, tablet, eccetera, ma stiamo parlando anche di tanti oggetti che non si vedono e che sono una rete di sensori che ormai è assolutamente pervasiva, sensori nel senso più ampio del termine, dispositivi in grado di vedere, di capire, di leggere quello che gli succede attorno, e che dialogando fra di loro sono in grado di permetterci di migliorare l'abitabilità, la salute, la qualità della vita, piuttosto che risolvere problemi di sicurezza in ambienti aperti, in ambienti chiusi. Un esempio per far capire in maniera proprio rapida: l'autobus che arriva al semaforo comunica col semaforo, per cui a un certo punto diventa verde e in qualche modo si sono parlati, ma noi non abbiamo visto nessun tipo di comunicazione. Certamente, e per chi vive a Milano, forse non soltanto a Milano, l'autobus si racconta alla sua centrale operativa dove si trova, la centrale operativa lo manda alle colonnine che ci dicono quanto tempo dobbiamo aspettare per far arrivare quell'autobus. Sì, questi casi sono infiniti. Qui si pensa che sia di mezzo solo l'elettronica, e in realtà l'elettronica c'è già e a posto, il problema è trovare dei materiali che reggano questo sviluppo. Sì, diciamo che l'elettronica è sicuramente importante, non è soltanto l'elettronica delle CPU, è anche ovviamente l'elettronica che è in grado di far svolgere funzioni sensoristiche, ma oggi sempre di più diventa importante un aspetto che è forse meno visibile, che è quello del fatto che questi dispositivi normalmente parlano tra loro attraverso reti wireless, non ci sono fili che trasportano l'informazione, perché sarebbe impensabile. Ma d'altra parte, perché possano essere completamente autonomi, devono essere anche autonomi da un punto di vista energetico, e mettere delle batterie non è una gran soluzione, per almeno 2 ordini di motivi. Uno banale, che la batteria dopo un po' si consuma e ci deve essere qualcuno che va lì e la ricarichi, e questo non è comodissimo, soprattutto se i sensori sono tanti. Stiamo parlando in questo momento di miliardi di sensori a livello planetario. L'altra cosa, che è forse ancora più drammatica, è che queste batterie sono tipicamente quelle batterie a lente che si vedono, quelle a litio per intenderci, e si è fatto un conto che nel piano di crescita della quantità di questi oggetti che saranno disponibili sul pianeta nei prossimi 5 anni, tutto il litio del pianeta non basterebbe ad alimentarli. Quindi dobbiamo trovare dei nuovi materiali. Ecco. Dobbiamo trovare delle soluzioni differenti, che significa sostanzialmente quello che oggi si chiama, per esempio, il macro harvesting, che è un'espressione un po' tecnica che indica il fatto che ci sono modi di fare, permettere a questi dispositivi di procurarsi da soli l'energia. Generarla, per esempio, con il loro movimento. Dario Narducci, grazie. Ascoltatori che siete magari nell'area di Milano, sì, venerdì prossimo collegatevi venerdì al sito novembre, radio, ricordiamolo, novembre, alle ore 14:30. Grazie, arrivederci. Grazie. Si apre a Napoli la mostra Futuro Remoto, è uno degli appuntamenti di scienza più consolidati. Pensate, siamo arrivati alla 28ª edizione, un appuntamento organizzato dalla Città della Scienza, e quindi qua dobbiamo assolutamente ricordarvi, ne parlammo allora, quella tragedia, insomma, che accadde a questa importante struttura della scienza, dell'educazione scientifica italiana, quando nel marzo del 2013 fu incendiata. Era un incendio doloso, c'è in ballo una inchiesta. Allora, adesso la Città della Scienza riparte con questo appuntamento molto bello e importante fino al 9 novembre, Futuro Remoto. Hanno organizzato una grande mostra dedicata al mare nello stile classico di Città della Scienza, una grande immersione, poi insomma, parlando di mare è proprio il caso di dirlo, in un mondo multimediale dove c'è sia la ricostruzione digitale di percorsi e ambienti, ma anche ricostruzioni di veri ambienti marini reali. In una sala, per esempio, troverete una grande vasca nella quale si mostrano gli adattamenti e le strategie dei vertebrati marini volte a costruire la costante sopravvivenza ai moti ondosi che si ha appunto in queste zone dove le onde si infrangono sugli scogli. Poi ovviamente spazio anche ai grandi robot sottomarini. Bene, quindi vi ricordiamo l'appuntamento a Napoli fino al 9 di novembre. La mostra si chiama Futuro Remoto. Tutte le informazioni ovviamente le trovate anche online. È una grande mostra, ma andiamoci anche per aiutare questa indispensabile ripresa della Città della Scienza. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Come vi dicevamo all'inizio, siamo stati a SMAO Milano, dove Chiara ha incontrato Carmine. In questo momento Carmine si sta sedendo, lui indossa un esoscheletro, insomma così lo possiamo chiamare, adesso andremo a descriverlo, si chiama ReWalk ed è l'utilizzatore Carmine Consalvi che è qui di fianco a me. Ciao Carmine. Ciao. Allora, tu sei affetto da una lesione midollare completa a seguito di un incidente in moto, se ci descrivi intanto che cosa hai fatto, cioè ti sei seduto, poi magari parliamo anche della parte più ingegneristica insieme a chi ti ha seguito in questo sistema di riabilitazione molto innovativo. Certo, io purtroppo ho avuto un incidente in moto e che mi ha lasciato in carrozzina. Sono 2 anni che ho fatto questo incidente, sono venuto a conoscenza appunto di questo ReWalk, non ho perso tempo. Ti sei rivolto a Eleonora Guanziroli che è qua di fianco a noi, lei è ingegnere biomedico presso il centro riabilitativo di Costa Masnaga a Lecco. Grazie insomma anche a Eleonora, alla sua riabilitazione e al fatto che ti ha insegnato in qualche modo ad utilizzare ReWalk, adesso tu puoi camminare, puoi sederti, alzarti e fare le scale. Eleonora, posso chiederti intanto di descriverci per gli ascoltatori che non possono vederlo che cos'è ReWalk, questo esoscheletro, è corretto chiamarlo così? Sì, ReWalk è un esoscheletro indossabile completamente autoportante, il che significa che il peso che Carmine ha addosso è determinato solo ed esclusivamente dallo zainetto che lui porta sulle spalle, all'interno del quale è contenuta la unità di comando del dispositivo. La struttura autoportante sono fondamentalmente due gambe, vediamola così, due gambe parallele cui Carmine risulta essere legato attraverso dei velcri. Quindi è una struttura molto molto semplice. Non è una struttura pesante come noi possiamo vedere, quanto pesa? Pesa 29 kg. E Carmine in realtà percepisce soltanto il peso dello zainetto che è di un paio di chili che porta addosso. Come riesce Carmine a condurre, a comandare questo strumento? Lo strumento viene azionato attraverso lo spostamento simultaneo di due stampelle. Il sensore posto sul fianco sinistro di Carmine legge l'inclinazione del tronco e questa inclinazione fa sì che si inneschi ciascun movimento di ogni singola gamba. E poi indossa un orologio speciale. L'orologio serve per determinare la modalità che Carmine vuole utilizzare in quel momento, che può essere l'alzata, la seduta, il cammino o la salita e la discesa dalle scale. Carmine, tu indossi questo esoscheletro praticamente 8 ore al giorno e addirittura stamattina sei arrivato da Fiuggi qui a Milano con insomma la tua macchina guidando tranquillamente. Guarda, per me è una sensazione fantastica perché oltre a camminare e a fare quei 2 passi che in carrozzina non puoi, vedi veramente tutto sotto un altro punto di vista, in tutti gli effetti. Ecco, cammino con questo esoscheletro e ci stanno tantissimi giovamenti, non solo fisici ma anche emotivi. Ecco, infatti la parte emotiva diciamo che la comprendiamo, però anche dal punto di vista fisico è come se tu facessi una riabilitazione costante, questo è importante, così non devi recarti a fare la fisioterapia in un laboratorio. Esattamente, muovendo proprio le gambe come se stessi camminando, quindi con un movimento pressoché fisiologico, ogni passo che fai è come se attivassi una catena cinetica, quindi automaticamente circolazione del sangue comincia a rimettersi in sesto e tutto quello che ne consegue. Carmine ha acquistato, quindi utilizza l'esoscheletro tutti i giorni e anche a casa. Voi però fate un supporto, avete fatto una sorta di educazione a Carmine. Quanto tempo ci vuole per riuscire a imparare a gestire questo strumento? Per imparare a gestire il dispositivo, una media di 20 sedute, un paziente con lesione midollare media, che diciamo che può essere una lesione midollare di 4 in giù, riesce ad ottenere risultati. Poi più bassa la lesione, sicuramente meno difficile controllare il tronco, meno tempo si impiega per imparare ad utilizzare. Quanti sono i pazienti che lo stanno usando? I pazienti che lo stanno utilizzando a casa adesso sono 6, che stiamo seguendo sotto la direzione del mio primario, il dottor Franco Molteni, che ci tengo molto a sottolineare, e lo stiamo seguendo in maniera continuativa. Possiamo prevedere insomma che anche facendo un certo tipo di divulgazione, ecco, divulgando un po' queste informazioni, si possa allargare in qualche modo lo spettro dei pazienti che possa usufruire di questo metodo innovativo di riabilitazione? Ce lo auguriamo, nel senso che il compito nostro come ingegneri è quello di migliorare sempre di più il dispositivo. Attualmente il dispositivo è l'unico presente che può essere dato a domicilio al paziente e offre delle grossissime possibilità. potenzialità, come abbiamo sentito prima da Carmine. La cosa interessante è che questo esoscheletro è di casa madre israeliana, però è acquistabile, quindi chi insomma è affetto da questo tipo di patologia, quindi lo ricordiamo, lesioni midollari complete, può in realtà acquistarlo. Ovviamente il costo è da sostenere e immagino che sia anche abbastanza consistente per una famiglia, però c'è tutto il risparmio dal punto di vista della riabilitazione, insomma. Assolutamente, il dispositivo è acquistabile, chiunque voglia, dopo un dovuto training e dopo una supervisione medica fondamentale con l'aiuto di fisioterapisti, può effettuare training e può acquistare il device. Va bene, grazie, buon ritorno a Fiuggi, grazie anche a voi. Sempre a SMAU Milano, Federico invece ha indossato, sentite. Allora, io indosso Oculus, è come se fosse una maschera subacquea, un po' più grande, e sto guardando, sono immerso in una realtà virtuale di un supermercato, un normalissimo supermercato, e sto girando per i vari scaffali. Lucia Pannese di Imaginary, un'azienda italiana che ha incominciato sul territorio italiano e sta espandendosi anche fuori Italia. Io parlo un po' piano perché con questo casco qua in realtà non è facile parlare. Va bene, perché sono dentro un supermercato? Io ci sono dentro per fare questa trasmissione, ma invece chi potrebbe esserci al posto mio? Allora, intanto faccio presente che nel supermercato c'è lei, ma io non ci sono, perché il casco ce l'ha su lei. Allora, l'idea è quella che lei, se fosse l'utente standard, ha un declino cognitivo lieve, per cui stiamo cercando di riaddestrarla e aiutarla a fare di nuovo una vita normale. Quindi simuliamo, se vuole, un'esperienza di vita normale, come quella di fare la spesa tutti i giorni, e glielo facciamo fare però in questo mondo, devo dire inventato, in questo mondo virtuale. Molto fedele, perché effettivamente mi muovo in un supermercato. Ecco, ma è evidente che chi si mette addosso questo casco sa che non è in un ambiente virtuale. Sembrerebbe un trucco che non dovrebbe andare in porto, visto che il mio problema è quando vado in un supermercato vero. Adesso mi tolgo il casco perché il problema è nella realtà reale, e invece funziona. E invece funziona, il trucco c'è ma non si vede, come dire. In realtà noi la immergiamo nel supermercato, quindi nella realtà virtuale, ma si ha veramente la percezione di essere in un ambito realistico, quindi diventa un'esperienza estremamente reale, per la quale lei si dimentica, probabilmente l'ha notato, si dimentica dov'è effettivamente, e di fatto fa una simulazione. Di fatto anche il simulatore di volo ha funzionato con i piloti, no? È un pochettino lo stesso concetto. Togliamo la paura di riaffrontare queste cose e andiamo avanti per gradi, quindi gli diamo un ambito protetto e avranno nel supermercato vero la sensazione di esserci già stati. Cioè la mia mente, il mio corpo, dobbiamo dire anche il mio corpo perché qui ci si muove, no? In parte sanno che è un trucco, ma la parte rimanente è più che sufficiente, la parte rimanente di sensazioni è più che sufficiente perché quell'esperienza sia rieducativa. Assolutamente sì, si fa con i clinici, ovviamente operiamo con terapisti, con il mondo medico, con gli psicologi, e la cosa funziona, la sua mente è convinta di essere al supermercato. Qui stiamo parlando di un'applicazione per scopi di riabilitazione, ma in realtà voi fate anche attività in cui l'ambiente virtuale serve per addestrare, per fare formazione. Assolutamente sì, se vuole rimanere allo stesso esempio si può immaginare un'applicazione culturale che può essere un museo, uno scavo archeologico, una città in un'epoca che non c'è più, che ne so, Milano medievale, la può andare a visitare con la stessa tecnica. Se vuole pensare alla formazione, magari ci dimentichiamo un attimo di Oculus e pensiamo comunque a un serious game, quindi un gioco con scopo non ludico, magari formativo, che può funzionare come un videogioco, anche in 3D, dove lei si muove all'interno di un'ambientazione, attua comportamenti, effettua scelte, vede che cosa succede, a seconda dei comportamenti e delle scelte accadono situazioni diverse da affrontare in modo da esplorare e comprendere le dinamiche del sistema che la circondano. Io intanto qui vi dico di andare poi a vedere sul nostro sito www.moebiusonline.eu oppure al blog della nostra trasmissione sul sito di Radio 24, perché vedrete un video di queste realizzazioni virtuali. Lei mi diceva prima di questa intervista che c'è un'applicazione molto interessante, per esempio per addestrare personale ospedaliero. Sì, e in questo caso addestriamo personale ospedaliero non su temi di medicina, ma su temi comportamentali, ovvero facendo l'infermiere o facendo l'operatore ci sono tutta una serie di casistiche stressanti che potrebbero portarla a dei comportamenti che non sono più quelli corretti e previsti, e quindi anche lì si presentano tutta una serie di situazioni all'operatore che fa il suo lavoro nel gioco, ma deve affrontare dal paziente che è scomparso dal letto, come fosse una detective story, deve scoprire dove è andato a finire, a tutta una serie di comportamenti che sono anche provocatori in certe situazioni, e lavorando su cioè chi ama il termine chi no, ma insomma le soft skill e competenze comportamentali, aiutiamo questo staff a prendere di nuovo consapevolezza e ad aumentare la propria esperienza. Lei citava appunto l'elemento di addestramento alla sorpresa, perché lì l'infermiera si trova improvvisamente di fronte a qualcosa. Esattamente, non se lo aspetta, si aspetta di trovarlo lì per dargli le goccine e andare via, e in realtà si trova a risolvere, lo chiamo un mistero per rimanere nell'ambito del gioco, però ad esempio, come ha nel gioco le cartelle cliniche e le informazioni del paziente, se le va a vedere dovrebbe venire immediatamente l'intuizione di dove trovare il paziente nell'ambito dell'ospedale ricostruito in 3D. E questa è una differenza forte tra avere invece un seminario in cui un docente dice: allora adesso parliamo del caso in cui un paziente si alza dal letto e certo il contenuto è lo stesso, ma poi l'infermiere così ce l'ha bello spiegato, invece nel serious game gli capita. Sì, è la differenza tra ricevere passivamente delle informazioni ed essere attivi al centro di un'esperienza, fare delle cose, e se ci pensiamo ci ricordiamo molto di più ciò che abbiamo fatto che non ciò che ci è stato raccontato o che abbiamo letto. Grazie, buon lavoro. Grazie altrettanto, arrivederci. Moebius finisce qui. Come vi abbiamo detto all'inizio di puntata, il cambiamento è prevede questa mezz'ora, insomma 21:30 per Moebius, poi ci saranno altre novità, ve le diremo in seguito. Ovviamente potete continuare a scriverci, mandarci i vostri suggerimenti a moebius@radio24.it, noi cerchiamo di rispondere a tutti. Grazie e buona serata. Buona settimana a tutti e a tutte.